innanzitutto il decreto sicurezza viene approvato dopo aver fatto la commedia delle elezioni, insomma hanno fatto finta di litigare al proprio interno con varie dichiarazioni ad effetto, adesso si torna alla natura vera di questo governo, che è un governo profondamente reazionario, nel senso che ha tutta l'imbarcatura si basa sulla penalità, sia le politiche sociali messe in campo anche il cosiddetto decreto dignità, così come è stato impostato anche il reddito di cittadinanza, e si imposta tutto sul concetto della punibilità a determinati soggetti. Quindi il decreto bis, in cui non si vede la ragione del perché di questa urgenza, nel momento in cui sono gli stessi ministeri, a partire dal Ministero degli Interni, che i dati che ha portato all'attenzione sono dati che dimostrano da come in questo paese da più di un decennio i reati sono in calo, così come sono in calo il numero degli sbarchi dei migranti. Quindi qual è la necessità di approvare urgentemente un nuovo decreto sicurezza dopo che all'inizio dell'anno il precedente decreto è stato convertito in legge e dopo che nel nostro paese negli ultimi 6 anni sono stati approvati 7 pacchetti sicurezza? Allora significa che invece il tema è un altro, è che viviamo dentro un emergenzialismo infinito, e dentro questo emergenzialismo infinito c'è la necessità di essere dentro uno stato di eccezione permanente, in cui ogni giorno pezzi di libertà individuali e collettive vengono messe da parte in nome di un'ipotetica insicurezza sociale, mentre l'insicurezza sociale è dovuta al fatto che il welfare in questo paese è profondamente tagliato e diciamo è quasi totalmente inesistente, e questo è il frutto del perché negli ultimi 25 anni nel nostro paese il 73% delle spese sociali sono andati verso le spese penali, dalle carcerizzazioni, quindi non solo l'ampliamento delle carceri ma soprattutto nuovi luoghi di detenzione, pensiamo a quelli che sono i CIE, oggi CPR, gli hotspot, quelli che riguardano le galere cosiddette galere etniche per migranti, che sono rinchiusi in vere e proprie galere senza aver commesso nessun reato, così in tutti altri servizi per il controllo sociale, pensiamo semplicemente a quanti milioni l'anno spendono le amministrazioni locali, che sono anche dentro il cosiddetto patto di stabilità, quindi non possono sforare il bilancio per le spese sociali, però poi di fatto spendono milioni di euro per i servizi di videosorveglianza. Allora, in questo contesto qui, oggi il nuovo pacchetto sicurezza non è altro che un'ulteriore criminalizzazione di determinate soggettività, a partire dai migranti e a partire dal conflitto sociale, sia di chi lo pratica nei territori e sia chi lo pratica in mare con azioni di solidarietà e di salvataggio di vite umane. Questo è il dato di fatto. In più si quantifica la vita umana, perché in effetti dentro il pacchetto sicurezza c'è il fatto che ogni vita umana salvata rappresenta una multa, quindi un'entità economica. Beh, io credo che su questo bisogna letteralmente ragionare e indignarsi profondamente, perché siamo di fatto a qualcosa di inaudito, cioè il conflitto sociale, le forme repressive di fronte a quelle che sono le forme più consuete di lotte, pensiamo a quello che è stato inserito nel pacchetto sicurezza 1, il blocco stradale, in cui oggi un blocco stradale, forma di lotta che è stata applicata nel corso dei secoli da tutti i movimenti, una forma di lotta non violenta anche se concretamente, oggi viene punita con 6 anni di reclusione. Questo a chi cosa va a colpire? Va a colpire soprattutto quei lavoratori, penso ai lavoratori della logistica, che oggi sono una delle situazioni che portano avanti una lotta cosiddetta in avanti, perché non è che resistono all'ipotetico licenziamento, loro in nei loro luoghi di lavoro reclamano più salario, meno orario di lavoro, reclamano più diritti, quindi diciamo di fronte a quelle che sono le lotte in questi anni in cui purtroppo si è dovuto incorrere a resistere, a difendere i propri luoghi di lavoro verso quelle che sono state scelte sciagurate da parte di aziende multinazionali che hanno delocalizzato o hanno chiuso la propria azienda e quindi di perdita del posto di lavoro, ci troviamo di fronte a situazioni che possono essere di esempio ad altre situazioni territoriali. così come le lotte territoriali, penso a quanti blocchi stradali sono stati fatti da invertenze come quelle dei no-TAV o no-TAF a sud, oppure contro le altre opere di devastazione ambientale, penso alle discariche di inceneritori. Oggi questo va ampliato perché il nuovo decreto prevede che ad esempio 4 anni di reclusione per un'accensione di un fumogeno durante un corteo, insomma, quindi vanno ad amplificare norme emergenzialistiche già esistenti nel nostro paese, penso al travisamento che è previsto nella legge reale del 1975, una legge speciale, una legge emergenzialistica, e quindi ecco, a fronte di tutto questo noi ci troviamo dentro quello che dicevo prima, un contesto di uno stato di eccezione permanente in cui c'è un diritto penale del nemico, in cui delle persone vengono colpite non in base a un ipotetico reato, ma vengono colpite in base all'appartenenza sociale, e qui sono i migranti, sono i marginali, coloro che vengono emarginati delle città, dei quartieri, perché non è un caso che aumentano anche le possibilità ai sindaci, ai prefetti di dare il DASPO urbano. Quindi in poche parole ci troviamo di fronte a una lettura profondamente classista della giustizia e che mette in essere quello che oggi è profondamente l'essere classista di un governo che in nome della legalità di fatto ha relegato a ipotetici criminali tutta una serie di soggettività sociali. Ecco, diciamo poi l'impressione un po' è anche che formalizzi questo decreto molte pratiche repressive che erano già state provate e messe in campo in questi mesi dal Ministero dell'Interno, e che in qualche caso riconosca un po' un ruolo che si era già autoattribuito, penso sull'immigrazione, appunto al passaggio della titolarità al Ministero dell'Interno per quanto riguarda poi di fatto la possibilità di chiudere i porti. A questo punto direi forse facciamo un'analisi un po' per soggettività colpite per aree, diciamo, di questo decreto, partendo dall'immigrazione, appunto, che in qualche modo forse completa quello che era stato il ruolo del primo decreto sicurezza, che appunto attaccava principalmente direttamente i migranti e richiedenti asilo, e questa volta l'attacco viene sferrato in modo ancora più forte contro anche le realtà solidali in qualche modo. In effetti questo il pacchetto sicurezza, ora legge, insomma, uno era profondamente contro la figura del migrante, questo va a colpire, tende a colpire chi pratica solidarietà e salva le vite in mare. Quindi in poche parole si realizza, ecco, proprio quel regime reazionario di massa, perché l'attacco all'ONG e non solo, non è stato fatto solo da Salvini. Ricordo ancora benissimo l'estate del 2017 quanto l'oggi vice premier Di Maio attaccò l'ONG chiamandole taxi del mare, insomma, quindi la natura reazionaria non è semplicemente frutto di un personaggio politico come Salvini, la natura reazionaria è frutto di anni di rincorsa di politiche sicuritarie che sono state altro che alimentare un giustizionalismo violento, feroce, forcaiolo all'interno della società. E oggi colpire chi salva le vite in mare dimostra profondamente che viviamo in un mondo alla rovescia, viviamo in un paese alla rovescia, in cui chi pratica solidarietà viene condannato, viene multato, viene criminalizzato, e chi alimenta l'odio, chi alimenta la voglia di sangue, di crudeltà all'interno del paese è ministro della Repubblica, e credo che su questo il problema è da evidenziare, che non è frutto di Salvini. Se il Movimento 5 Stelle questa cosa non l'accettava o era dissenziente, poteva tranquillamente votare contro. Ricordo che all'interno del Consiglio dei Ministri il Movimento 5 Stelle è maggioranza, insomma, quindi di fatto questa cosa non solo l'ha approvato, ma io credo che lo condivida pienamente, perché, ripeto, sono state anche dichiarazioni fatte quando erano all'opposizione dall'allora onorevole Di Maio, oggi vice premier del Consiglio. Sì, e invece passando alla questione ordine pubblico, nuovi stanziamenti per le forze di polizia, per le operazioni di polizia sotto copertura, 3 milioni di euro in particolare. e nuove fattispecie delittuose vengono definite per chi fondamentalmente lotta in qualche modo nelle manifestazioni. Ormai di fatto il problema delle manifestazioni, il problema della protesta sociale in questo paese è ridotto solo a un problema di ordine pubblico. Ormai ci sono pochissime possibilità di agibilità politica per i movimenti, per i comitati, per le associazioni, per coloro che intendono lottare contro questo stato di cose. Ecco, nel primo pacchetto sicurezza c'era all'interno, come ricordavo prima, la faccenda del blocco stradale che è stato portato a reato e quindi condannabile a 6 anni di reclusione, raddoppiabile se viene individuato come organizzatore, così come sono state colpite le realtà delle occupazioni abitative, insomma. Quindi in questo paese, invece di agire sulle ragioni delle cause della povertà, si agisce colpendo chi di fatto era già stato colpito dalle politiche economiche e sociali. Quindi, in poche parole, in questo paese non si agisce sul dare la possibilità a tutti il diritto all'abitare. Io ti colpisco nel momento in cui non hai casa, la colpa è la tua perché sei uno sfigato, e se vai a occupare io ti condanno pure. Questo è il messaggio che di fatto lanciano e applicano poi in termini legislativi. Ecco perché siamo dentro un regime reazionario di massa, perché di fatto la povertà è diventata reato, la solidarietà è diventata reato, e quindi in questo paese sei dentro una logica totalmente penale, sei dentro uno stato penale massimo, in cui tutto viene relegato dalle leggi e tutto viene relegato dalla possibilità dell'incarcerare le cosiddette classi pericolose. Ecco, io credo che siamo tornati proprio in quel contesto lì, in un contesto dell'anzian regime, dove c'erano le cosiddette classi pericolose che non avevano nessun diritto. Oggi siamo in questa fase storica identica, anche se in questo paese si continua a recitare la commedia della democrazia. Sì, anche perché poi quando tu dicevi si riduce ancora di più l'agibilità politica, poi appunto anche se per esempio in questo caso non si colpiscono direttamente i migranti con gli articoli, resta comunque il fatto che l'agibilità politica chiaramente cambia da una soggettività all'altra, e più tu criminalizzi ma si va a colpire tutti, perché è chiaro che questo secondo me è anche un provvedimento preventivo, nel senso che ormai lo dicono tutti, lo dicono gli indicatori, questa crisi non è assolutamente finita, anzi purtroppo nei prossimi mesi e anni andrà a peggiorare, quindi peggioreranno le condizioni materiali di vita di milioni di cittadini. Quindi che cosa potrà succedere? Potranno ancora per mesi alimentare l'odio verso il più povero, quindi a modo particolare per i migranti, ma poi questa favoletta finirà, e quindi molta gente che si trova a perdere il posto di lavoro, a perdere la casa, non avere più servizi sociali e tutto, avrà la necessità anche di mettere in campo forme di protesta. E oggi hanno blindato le forme di protesta, perché in piazza non ci si può andare, o ci deve andare in un determinato modo, e decidono loro, perché ricordiamo pure che a fronte di quelli che sono stati i precedenti pacchetti di sicurezza e i patti per la città, in molte città si sta pensando già di far manifestare fuori dalle cosiddette mura storiche, insomma, quindi relegare anche le ipotetiche proteste di manifestazioni fuori nelle periferie. Allora diventa chiaro il fatto che da un lato c'è la criminalizzazione di determinati soggetti, dall'altro si tenta a blindare qualsiasi possibilità di conflitto sociale in questo paese. È chiaro che questi decreti sono una dichiarazione di guerra. Ora bisogna stare molto attenti, bisogna essere molto intelligenti e bisogna vedere come creare forme di opposizione, di disobbedienza forti, radicali a questo che, ripeto, è letteralmente la costruzione di uno Stato neoautoritario.